La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Oggi giochiamo ai pirati. Vi racconteremo e leggeremo in parte l'Isola del Tesoro. E quale posto più adatto del faro per una storia di mare, scritta da Robert Louis Stevenson, il figlio del faro, ovvero di colui che costruiva i fari. Stevenson in foto, col suo volto nobilmente allungato, somiglia molto a John Carradine. I cinefili lo ricorderanno in Ombre rosse. Di Stevenson, Borges scrisse: «Fin dall'infanzia, Robert Louis Stevenson è stato per me una delle forme della felicità». Parliamo dell'Isola del Tesoro perché è una grande occasione letteraria. È uscita per la Burr una nuova traduzione di un grande scrittore di cui abbiamo parlato spesso, Michele Mari, con una lingua così armoniosa che ti prende come un'onda. È come andare per mare. E per capire quanto l'accoppiamento sia giudizioso, ecco cosa scrive Michele Mari di Stevenson. Forse il sogno più dolce della mia vita fu quando Robert Louis Stevenson venne a chiedermi se potevo prestargli un po' dei miei urania. Dovrei prima chiedere al nonno, erano suoi, risposi, ma già le sue lunghe dita accarezzavano il numero 17. Già sapevo che quel numero sarebbe finito in Polinesia. E disse, il nonno è d'accordo, ci ho già parlato io. E mai come in quel momento, io mi sentii sfiorato dalla grazia. E poi nel racconto otto scrittori, rivolgendosi a Stevenson, raccontatore amato, voi che dell'avventura fate incubo e fiaba e che nella vostra delicatezza di pallido selenita nascondete la violenza dell'astro infocato, voi che siete stato capace di scrivere L'Isola del Tesoro, libro che fra i mille suoi pregi ha quello di rallentare la crescita di chi ha avuto la fortuna di leggerlo nell'adolescenza, che è l'età vostra eterna. Libro saturo di mistero e pur plastico e sodo, libro irreale e pur legnoso e salmastro, libro spettacoloso che io non esito a definire il più bel libro d'avventura che sia mai stato scritto. Qualche notizia su Robert Louis Stevenson, che nasce a Edimburgo nel 1850. Il padre è scozzese e sono famose le sue invenzioni che riguardano l'ottica dei fari che progettava e costruiva. La madre era francese. Stevenson è stato molto malato di polmoni fin da bambino e quindi è passato l'infanzia a letto e lì è cominciato il suo viaggio. Questo bambino fa finta che il suo letto sia il mare e lì comincia a navigare, ad armare le sue prime flotte romanzesche. Questo è quanto Borges scrive di Stevenson. Mi è difficile scrivere su Stevenson quanto su un amico intimo. Il fatto è che di un amico intimo si tratta. Anche se egli morì in un'isola sperduta del Pacifico nel 1894 e io nacqui a Buenos Aires, una città sperduta del sud, 5 anni dopo. Nel caso di Stevenson, lo scrittore e la sua opera, il sognatore e il sogno, perdurano con identica intensità. Stevenson studiò ingegneria e diritto, ma ben presto la sua vocazione fu la letteratura. La tubercolosi lo spinse verso sud. Viaggiò in Belgio, in Francia, in Svizzera, dipingendo e scrivendo. Durante uno dei suoi viaggi giunse col fratello a una locanda. Era notte. Da una finestra videro attorno al fuoco un gruppo di sconosciuti. Fra loro c'erano due donne. Stevenson indicò la maggiore e disse al fratello: «Vedi quella donna? Mi sposerò con lei». Quando si conobbero scoprì che era nordamericana, maritata, che si chiamava Lloyd Osborne e che viveva in California. Qualche anno dopo seppe che era diventata vedova. Non le scrisse. Come migrante attraversò l'Atlantico e poi, in un vagone di terza classe il continente. E qui segnaliamo, che fosse interessato, quel magnifico piccolo libro di Stevenson su questa esperienza, Amateur Immigrant. Si sposarono e la portò in Scozia. Aveva 30 anni. Spinto dall'urgenza del suo male, Stevenson volle sempre anticipare il proprio destino. In un autunno piovoso scrisse L'isola del tesoro per il figliastro, in tante notti quanti capitoli. Aveva cominciato col disegnare sul pavimento con dei gessetti colorati un'isola fantastica, piena di baie, di boschi e montagne. La vita di quest'uomo valoroso fu in buona parte una fuga, un esodo in cerca della salute. Nel 1890 il suo bisogno di un clima benigno lo portò alle isole del Pacifico, da cui non tornò. I nativi lo avevano soprannominato Tusitala, colui che racconta le storie. La sua poesia è così perfetta che ci suole sembrare inevitabile e anche facile. Morì improvvisamente a Vailima il 4 dicembre 1894. Qui finisce Borges. E questo invece è un saggio di Walter Mauro, che cita una delle tante lettere indirizzate a Swinburne. Ecco, un prediletto con un prediletto, con un altro prediletto che è Michele Mari. Questo è Stevenson che scrive. Questo clima, questi viaggi, e l'apparire delle terre all'aurora, le nuove isole che spuntano da banchi di nebbie mattutine, e nuovi approdi boscosi, e nuovi allarmi di temporali e risacche. Tutta la storia della mia vita è per me più bella di qualsiasi poema. Morì e chiese di essere sepolto sulla cima di una montagna, davanti al Pacifico. Scrisse: sotto il vasto cielo stellato, scavatemi una fossa e lasciatemi dormire. E un'altra richiesta che aveva fatto, che fu accontentata, fu di aggiungere sulla pietra tombale al suo nome quello di Tusitala, il raccontatore di storie. Un accenno alla genesi del romanzo. Questa donna che aveva sposato, Fanny Osborne, aveva due figli dal precedente matrimonio e lui diventa molto amico del figlio tredicenne. E ci fu una grande collaborazione tra loro. Addirittura The Ebb Tide, che in italiano tradotto I saccheggiatori di relitti, fu cominciato dal piccolo Lloyd e riscritto da Stevenson. Scrive Fabrizio Passanisi: Stevenson e Lloyd condivisero non pochi divertimenti e alcune collaborazioni letterarie. E qui raccontato proprio dallo stesso Lloyd come nacque L'isola del tesoro. Indaffarato con una scatola di colori, iniziai a colorare la mappa di un'isola che avevo disegnato. Stevenson arrivò quando stavo finendo, si chinò sulla mia spalla e subito iniziò ad aiutarmi a elaborare la mappa e a dare nomi ai luoghi. Non dimenticherò mai il brivido dell'isolotto dello scheletro e del monte Cannocchiale, né il batticuore che raggiunse il culmine con le tre rosse croci, e l'emozione ancor maggiore di quando scrisse le parole «Isola del tesoro» in alto a destra. E tra l'altro fu il primo successo letterario di pubblico, cui seguì poi l'altro che ne fece di colpo uno scrittore internazionale, che era Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. La guardiana del faro. Stavamo parlando dell'Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, di cui è uscita una nuova traduzione ad opera di Michele Mari per Rabur. Dopo gli accenni che abbiamo fatto, possiamo immaginare con quale trasporto Michele Mari si sia accinto a entrare nelle parole di uno scrittore tanto amato. Ma essendo Michele Mari, oltre che uno scrittore immensamente ispirato, anche un filologo impeccabile, ha voluto la consulenza della madrelingua. E così a questa traduzione hanno partecipato anche Hugo Doyle, italo-irlandese, e suo padre Thomas, irlandese, che abitualmente traducono le opere di Michele Mari in inglese. Dice Doyle, a lui e al padre si deve il 5% scarso, però il ringraziamento di Michele Mari è molto deciso. Nella prefazione scrive: tutta la mia gratitudine a Hugo e Thomas Doyle per la loro generosa e inestimabile assistenza. Ma della traduzione dopo. Adesso parliamo dell'Isola del Tesoro con Hugo Doyle. Hugo Doyle è già venuto al Faro a parlarci di Poco mossi gli altri mari, la rivista online che ha creato dedicandola all'opera di Michele Mari, una rivista non pubblica per una trentina di felici pochi, e stavolta lo abbiamo pregato di tornare perché si alterni nella lettura di qualche pagina di questo libro così importante per l'immaginazione di milioni di ragazzi e anche per darci qualche dettaglio, qualche notizia su questa traduzione. Buongiorno Hugo Doyle. Buongiorno. Allora, l'azione comincia in Inghilterra. Jim Hawkins è un ragazzino sui 14 anni che vive in un paesino di mare con i genitori che gestiscono la locanda Ammiraglio Bembo. Un giorno arriva un vecchio marinaio, molto losco, con un grosso baule. Si chiama Bill Bones e comincia a spadroneggiare. Però da una parte fa l'arrogante, ma dall'altra anche molta paura di visite indesiderate e soprattutto teme la visita di un uomo con una gamba sola. He had taken me aside one day and promised me a silver fourpenny on the first of every month if I would only keep my weather eye open for a seafaring man with one leg and let him know the moment he appeared. Un giorno mi aveva preso da parte promettendomi una moneta d'argento da 4 pence a ogni primo del mese se avessi tenuto gli occhi bene aperti in vista di un marinaio con una gamba sola. È inutile che vi dica quanto quel personaggio funestasse i miei sogni. Nelle notti di tempesta, quando il vento scuoteva i 4 angoli della casa e la risacca ruggiva lungo la baia e contro la scogliera, lo vedevo in 1000 forme, con 1000 espressioni diaboliche. Una volta la gamba era tagliata al ginocchio, una volta all'anca. Ora era una creatura mostruosa che aveva avuto sempre una sola gamba e al centro del corpo. Vederlo saltare, correre e inseguirmi fra siepi e fossati era il peggiore degli incubi. Le sue storie erano di quelle che spaventavano di più la gente. Storie tremende, a base di impiccagioni, di uomini costretti a camminare sulla passerella, di tempeste marine e delle isole Tortugas e di gesta e luoghi selvaggi nei domini spagnoli in America. Stando a lui, aveva passato la vita fra alcuni degli uomini più scellerati cui Dio avesse concesso di correre i mari, e il linguaggio con cui raccontava queste storie sconvolgeva la nostra semplice gente di campagna, quasi quanto i delitti che descriveva. Mio padre diceva sempre che la taverna sarebbe andata in rovina, perché la gente avrebbe smesso di venire a farsi tirannizzare e umiliare, per poi andarsene a letto tremante di paura. In realtà io credo che la sua presenza ci giovasse. Difatti è un successo strepitoso per le campagne, tutti corrono a farsi spaventare. Al momento la gente si spaventava, ma quando ci ripensava ci trovava un certo gusto. Nella tranquilla vita di campagna era un bel diversivo. E fra i più giovani c'era perfino chi dava mostra di ammirarlo, chiamandolo vero lupo di mare e vecchia salsedine, o in modi simili, e dicendo che erano uomini così ad aver reso l'Inghilterra insuperabile sul mare. E poi un giorno arriva il dottor Livesey, questo gran signore che è anche magistrato, e Jim nota il contrasto fra il pulito e brillante dottore con la cipria della sua parrucca bianca come neve e quell'ercio volgare, fosco spaventapasseri di un pirata, seduto con le braccia sulla tavola, ormai intontito dal rum, che canta, canta e canta la sua eterna canzone. 15 men on a dead man's chest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. E subito c'è un duello tra il vecchio pirata e il dottore, nel senso che il pirata canta proprio per annientare la presenza del dottore, e dato che il dottore non fa una piega e continua a parlare con lo stesso tono di voce, lui a un certo punto gli grida: «Silenzio laggiù, sotto castello!» «Vi rivolgete a me, signore?» chiese il dottore, e quando il furfante gli disse con un'altra imprecazione che era così: «Ho da dirvi solo una cosa, signore», replicò il dottore, «e cioè che se continuate a bere, il mondo si libererà presto di una sporca canaglia». Il furore del vecchio fu spaventoso. Schizzò in piedi, estrasse e aprì un coltello a serramanico da marinaio e, bilanciandolo sul palmo della mano, minacciò il dottore di infilzarlo alla parete. Il dottore non fece una piega. Gli parlò come prima, da sopra la spalla e con lo stesso tono di voce, solo un poco più alta, in modo che tutta la stanza potesse udire, ma assolutamente calmo e fermo. «Se non rimettete subito quel coltello in tasca, vi giuro sul mio onore che alla prossima assise verrete impiccato. Seguì una battaglia di sguardi, ma presto il capitano si arrese, ripose l'arma e si rimise seduto a mugolare come un cane bastonato. E ora, signore, continuò il dottore, poiché adesso so che nel mio distretto c'è un tipo come voi, potete star certo che vi terrò d'occhio giorno e notte. Non sono solo un dottore, sono anche un magistrato, e se mi giunge anche solo il fiato di una lamentela contro di voi, prenderò provvedimenti perché siate perseguitati e cacciato da qui. Questo è quanto. Ed ecco una delle visite che teme tanto il vecchio marinaio arriva, ed è Cane Nero. Molto minaccioso, è evidente che vuole qualcosa da lui, lottano, il vecchio ha la meglio, il Cane Nero scappa, fugge via ferito. Il dottore soccorre il vecchio marinaio, però gli dice: il rum per voi è morte. Però è morte anche non averlo, e il vecchio supplica Jim, il ragazzino, di dargliene un po'. Col rum ci vivevo, te lo dico io, è stato il mio cibo e la mia bevanda, mi è fatto da marito e da moglie. Arriverà poi un'altra visita ancora più spaventosa, il cieco più, che gli porta il bollo nero. Gli tesi la mano e l'orribile sussurrante creatura senza occhi la ghermì come in una morsa e non udii mai una voce tanto crudele e fredda e cupa come quella del cieco. Il cieco vuole qualcosa anche lui dal marinaio, lottano, il cieco alla peggio, anche lui scappa ferito e battuto. Ma subito dopo lo scontro, il vecchio Bill cade di schianto e muore. Jim e sua madre furgano nel baule, perché lui aveva anche smesso di pagare da molto tempo, faceva parte delle sue prepotenze. Prendono un po' meno di quanto gli deve, perché la madre non sa fare i conti, e Jim allora afferra un rotolo che lo incuriosisce dal baule. Fanno appena in tempo a scappare che arrivano i pirati, sfasciano la locanda, cercano Jim e sua madre per strappar loro ciò che cercano, che poi sapremo essere la mappa, e ucciderli. E si sente la tremenda voce del cieco che grida: mettetegli la casa a rovescio. Down with the door, he cried. Ay, ay, sir, answered two or three, and a rush was made upon the Admiral Bembo, the lantern bearer following, and then I could see them pause and hear speeches passed in a lower key, as if they were surprised to find the door open. Arriva la guardia a cavallo, i pirati sono sgominati, il cieco muore travolto da un cavallo e invece Jim si mette in salvo, viene accolto da un amico del dottore, il conte Trelawney, e scoprono che quel rotolo che lui ha preso dal baule è la mappa del tesoro per cui tutti questi pirati sono pronti a uccidersi l'uno con l'altro. E il dottore raccomanda al conte, perché si vede che lo conosce, gli raccomanda il silenzio. È la prima condizione perché l'impresa riesca. E il conte dice: io sarò muto come una tomba. In verità sarà come una tromba, perché lo dice presto a tutti, come possiamo sentire da questa lettera. Antica locanda dell'Ancora, Bristol, 1 marzo 1700. Caro Livesey, poiché non so se siete alla villa o ancora a Londra, invio copia della presente a entrambi gli indirizzi. La nave è acquistata e equipaggiata, è all'Ancora, pronta a salpare. Non immaginereste mai una goletta più leggiadra. Potrebbe governarla un bambino. 200 tonnellate. Nome Hispaniola. L'ho avuta grazie al mio vecchio amico Blundley, che in tutto e per tutto si è dimostrato un asso nella manica. Questo ammirevole individuo si è letteralmente fatto in quattro per aiutarmi, e così, posso dire, tutti qui a Bristol, non appena hanno fiutato la nostra meta, voglio dire, il tesoro. È stato Blundley in persona a trovare l'Hispaniola e grazie a un'abile trattativa l'ha avuta per una sciocchezza. A Bristol c'è una cerchia di persone esageratamente prevenute contro Blundley. Arrivano al punto di affermare che questo onesto uomo farebbe qualsiasi cosa per denaro, che l'Hispaniola apparteneva già a lui e che me l'ha venduta a un prezzo assurdamente alto. Evidentemente solo spudorate calunnie. Avrei voluto almeno una ventina di uomini, nell'eventualità di scontri con gli indigeni, i bucanieri o quegli odiosi francesi, e mi sono dannato l'anima per trovarne appena una mezza dozzina, finché un incredibile colpo di fortuna mi ha fatto incontrare proprio l'uomo che mi serviva. Mi trovavo sul molo quando, per puro caso, Mi misi a chiacchierare con lui. Scoprii che era un vecchio marinaio, gestiva una taverna, conosceva tutta la gente di mare di Bristol. Stare a terra gli aveva fatto male alla salute e desiderava un buon imbarco come cuoco per tornare a navigare. Ne fui profondamente toccato e per pura compassione lo ingaggiai sui due piedi come cuoco di bordo. Si chiama Long John Silver e ha perso una gamba, ma questa l'ho presa come una buona referenza perché l'ha persa difendendo il proprio paese agli ordini dell'immortale Hawk. Non ha una pensione, Livesey. Pensate in che tempi abominevoli viviamo. Bene, signore, pensavo di aver trovato solo un cuoco e invece avevo scoperto un intero equipaggio. Fra Silver e me abbiamo messo insieme in pochi giorni una ciurma dei più incalliti lupi di mare immaginabili. Non belli da vedere, ma uomini, stando alle loro facce, dallo spirito indomito. Vi assicuro che potremmo tener testa a una fregata. Long John si è anche sbarazzato di due dei sei o sette uomini che avevo già ingaggiato. Mi ha dimostrato in un attimo che erano proprio i tipi di scansafatiche d'acqua dolce di cui dovevamo diffidare in un'impresa tanto importante. Io mi trovo in ottime condizioni di salute e di spirito. Mangio come un toro, dormo come un ciocco, eppure non mi godrò un momento finché non udrò i miei vecchi marinai trepestare attorno all'argano. Verso il mare, via! Al diavolo il tesoro! È il fascino del mare che mi dà il capogiro. Io trovo molto divertente il fatto che tutti noi capiamo, anche un bambino capisce, che l'hanno fregato di brutto il conte Trelawney. È chiaro che ha arruolato il più delinquente di tutti, che è quello di cui persino Bill Bones aveva paura, l'uomo con una gamba sola, che è il capo della spedizione. E che questo ha arruolato tutti i pirati della vecchia ciurma del pirata Flint. Tutti capiscono, meno che loro, e l'autore si prende gioco, come poi faranno i pirati, di questi belli imbusti del mare. La guardiana del faro. Insieme a Hugo Doyle vi stiamo raccontando della nuova traduzione dell'Isola del Tesoro ad opera di Michele Mari. In questo libro l'orrore è sempre presente, esso governa il mondo, e presto conosceremo l'ambiguità di Silver, odioso, fastoso e irresistibile protagonista di questa avventura. Ora, l'approccio di Jim con la vita di mare è terrificante. Prima il temibile pirata, Bill, poi l'evocazione dell'uomo senza una gamba, che già gli provoca incubi, poi i ceffi assassini, il cane nero, il cieco più, che cercano di assassinare lui e la madre. Beh, uno non ne vorrebbe sapere più. Invece Jim, dopo questo assaggio, è soltanto lì che vuole andare, nel mare. Jim è l'eroe della storia. Se i ragazzi da un secolo e mezzo lo leggono col cuore in gola, è anche perché tutto gli riesce. Senza che abbia dei superpoteri, però li ha, quelli che gli dà l'autore. Farà cose impossibili, come manovrare da solo l'Hispaniola, seguendo le sue ispirazioni che lì per lì sembrano bislacche. Quando poi il conte lo manda alla taverna da quello che sarà il cuoco di bordo, da Long John Silver, la prima cosa che vede è Cane Nero, uno di quelli appunto che erano andati per aggredire Bill, e si rivela subito un istrionesco mentitore e un adulatore spudorato. Questo è Long John Silver, che è colto in castagna dal fatto che Jim Hawkins ha scoperto Cane Nero nella sua taverna, riesce a ribaltare la frittata e così si rivolge a Jim Hawkins. Ma vieni qui, è pronti alla virata, basta adesso, il dovere è dovere, compagni. Metterò il mio vecchio tricorno e ce ne andremo dal capitano Trelawney a riferirgli questa faccenda. Perché bada, giovane Hawkins, è una faccenda seria. E né tu né io ne usciamo tanto bene. Nemmeno tu, devi ammettere. Non sei stato svelto, nessuno dei due è stato svelto. Ma al diavolo, è stato proprio un bel tiro quello del conto. E ricominciò a ridere, e talmente di cuore, che anche se non trovavo la cosa divertente come la trovava lui, fui costretto ancora a unirmi a lui nell'ilarità. Stanno per partire e all'ultimo arriva il capitano della nave, il capitano Smollett. Gli basta un'occhiata per capire che i marinai sono tutti avanzi di galera e prende le prime precauzioni strategiche, il minimo, nella distribuzione degli uomini e nella collocazione delle armi e delle munizioni, perché così come stanno le cose, Silver ha fatto in modo che sia tutto pronto per un ammutinamento. E il dottore e il capitano Smollett sono gli unici che hanno un po' di sale in zucca, ma però poco a poco saranno spostati ai margini della storia, perché in primo piano giganteggiano Silver e Jim e la partita si gioca tutta tra di loro. Le orribili bestemmie del pappagallo di Silver saranno enunciate ma mai pronunciate, perché l'attenzione dell'autore era molto volta all'idea di avere un pubblico per ragazzi. E conosciamolo, questo personaggio fondamentale, il capitano Flint, non il pirata defunto, ma il pappagallo cui Silver ha dato il suo nome. E Silver presenta il pappagallo a Jim. «Vieni qui, Hawkins», diceva, «vieni a fare due chiacchiere con John. Nessuno è più benvenuto di te, figliolo. Siediti e ascolta le novità. Il nostro capitano Flint, ho chiamato capitano Flint il mio pappagallo come il famoso bucaniere, predice il successo del nostro viaggio. Non è vero, capitano?» Il pappagallo diceva molto rapidamente: pezzi da otto, pezzi da otto, pezzi da otto. Here's Captain Flint predicting success to our voyage. Wasn't you, Captain? And the parrot would say with great rapidity: pieces of eight, pieces of eight, pieces of eight. Vedi quest'uccello, diceva, avrà forse un 200 anni, Hawkins. Per lo più vivono per sempre, e se qualcuno ha visto più nefandezze di lui, deve essere il diavolo in persona. Ha navigato con England, il grande capitano England, il pirata. È stato nel Madagascar e nel Malabar e nel Suriname e a Providence e a Portobello. Era presente al recupero delle navi cariche d'argento che avevano fatto naufragio. È là che ha imparato pezzi da otto. E non c'è da stupirsi. Ce n'erano 350.000, Hawkins. Ha assistito all'abbordaggio della nave del viceré delle Indie al largo di Goa, lui. E a guardarlo si direbbe un bambino. Ma tu hai sentito l'odore della polvere, non è così, capitano? Pronti alla virata! Strillava il pappagallo. Ah, una bella lenza questo qui, diceva il cuoco dandogli qualche zuccherino dalla sua tasca. Dopodiché l'uccello beccava le sbarre sgranando bestemmie la cui atrocità superava ogni immaginazione. Ecco, aggiungeva John, non puoi toccare la pece senza impeciarti, ragazzo. Guarda questo mio povero vecchio uccellino innocente che bestemmia come un demonio. Eppure nessuno è più saggio di lui, puoi starne certo. Arrivo a dire che bestemmierebbe allo stesso modo davanti a un cappellano. Poi John si sistemava il ciuffo con un suo fare solenne che mi faceva pensare a lui come al migliore degli uomini. Questo è lo trovo un passaggio bellissimo, è uno dei primi momenti in cui affiora una verità diversa da quella che il lettore pensa di indovinare fino a questo momento, e cioè le cose non sono come le racconta Long John Silver. L'unico che parla in maniera trasparente è proprio il pappagallo, che ripete cose sentite da altri, ma questi altri le avranno pur dette. Ed ecco la seconda azione, dopo avere trovato la mappa, di Jim. Il conte vizia molto l'equipaggio e tra le altre cose gli ha messo un grande barile sul ponte dove chiunque può scendere e prendere delle mele fresche, e così quella sera vuol fare anche Jim e scoprirà il complotto. Eravamo entrati nella zona degli alisei per prendere il vento che ci avrebbe portati all'isola cui eravamo diretti, e procedevamo spediti verso di essa. A un certo punto della notte, o al più tardi l'indomani, avremmo avvistato l'isola del tesoro. Quindi, dopo il tramonto, come ho già detto, gli viene voglia di una mela, entra completamente nel barile e sente qualcuno che si è appoggiato pesantemente, si è seduto sul fianco del barile e parla. Era la voce di Silver, e prima ancora di averne udito una decina di parole non mi sarei mostrato per nulla al mondo, ma rimasi lì ad ascoltare tremebondo, perché da quella decina di parole capii che la vita di tutti gli uomini onesti a bordo dipendeva solo da me. Insomma, hanno deciso di impadronirsi del tesoro e di fare fuori tutti quelli che non sono dei loro. Questo è Silver che parla e Hawkins lo sente dal barile di mele. «Quando? Per tutti i diavoli!» urlò Silver. «All'ultimo momento possibile, ecco quando. Abbiamo un uomo di mare di primo ordine, il capitano Smollett, che conduce questa dannata nave per noi. Poi ci sono quel conte e quel dottore con una mappa. E io non so dov'è, lo so, forse. Allora la mia idea è che quel conte e quel dottore trovino il bottino e ci aiutino a caricarlo a bordo, per tutti i diavoli». Poi si vedrà. Se potessi contare su di voi, figli di un doppio olandese, lascerei che il capitano Smollett ci riportasse indietro almeno fino a metà strada, prima di fare il colpo. Proprio mentre stanno arrivando in vista dell'isola, Jim dà questa notizia che sono in grave pericolo, che c'è un ammutinamento in corso, e allora mentre il dottore, il conte, il capitano deliberano, intanto quelli che ormai sappiamo essere pirati approdano all'isola. E qui Jim ha un'altra delle sue ispirazioni, si infila nell'ultima scialuppa e va anche lui nell'isola. Ispeziona l'isola per conto suo, vede una strana creatura, una specie di Robinson, vestito di pelli, tutto screpolato dal sole, che si aggira, lo incontrerà e scopre che è Ben Gunn, l'unico superstite della flotta di Flint, che è un reietto, ovvero abbandonato lì dall'equipaggio. E poi, non visto come uno spiritello andando dietro gli alberi, vedrà anche Silver che cerca di corrompere l'ultimo marinaio ancora fedele al capitano Smollett, il quale nel frattempo sente il grido del suo compagno Alan mentre parlano, e qui impariamo a conoscere meglio Long John Silver, mentre sta discutendo, spiato da Jim, con Tom per portarlo dalla sua parte. Silver smaschera subito le sue cattive intenzioni perché appena il marinaio tende una mano, lui si spaventa e dice «Giù le mani!» E l'altro risponde «Giù le mani se ti va così, John Silver. È la cattiva coscienza che ti fa aver paura di me. Ma in nome del cielo, dimmi, cos'era quel grido?» «Quello?» rispose Silver, divertito. «Oh, penso fosse Alan». E a questo punto Tom rifulse come un eroe. «Alan!» gridò. «Allora, pace all'anima di un vero marinaio. E quanto a te, John Silver?» Sei stato un mio compagno per tanto tempo, ma adesso non lo sei più. Se morirò come un cane, morirò facendo il mio dovere. Avete ucciso Alan, non è così? Uccidi anche me allora. Se puoi, ti sfido a farlo. E con ciò, quel tipo coraggioso volse risolutamente le spalle al cuoco e incominciò a camminare verso la spiaggia. Ma non era destinato a giungere lontano. Con un urlo, John si aggrappò a un ramo d'albero, sfilò la sua gruccia dall'ascella e lanciò quel missile rudimentale nell'aria. Colpì il povero Tom di punta e con straordinaria violenza, proprio fra le scapole al centro della schiena. Le sue mani annasparono verso l'alto, emise una specie di rantolo e cadde. Se fosse ferito molto o poco, nessuno potrà mai stabilirlo. Verosimilmente, a giudicare dal rumore, la sua spina dorsale si era spezzata di colpo. Ma non ebbe il tempo di riaversi. Silver, agile come una scimmia, anche senza gamba né gruccia, gli fu sopra in un istante e per due volte immerse il coltello fino all'impugnatura in quel corpo indifeso. Dal mio nascondiglio potei udirlo respirare rumorosamente mentre assestava i colpi. Jim parla con Ben Gunn. «Chi siete?» chiesi. «Ben Gunn», rispose, e la sua voce suonò ragua e stridula, come una serratura arrugginita. «Il povero Ben Gunn, ecco chi sono, e non parlo con un cristiano da 3 anni». «3 anni!» esclamai. «Avete fatto naufragio?» «No, amico», disse. «Reietto. Avevo già sentito quella parola, e sapevo che indicava una punizione terribile, abbastanza comune fra i bucanieri, secondo la quale il colpevole veniva sbarcato con una piccola scorta di polvere e di proiettili e abbandonato su qualche isola sperduta. Abbandonato 3 anni fa, proseguì, e da allora vissuto di capre, di vacche, di ostriche. Ma amico, il mio cuore spasima per un cibo da cristiani. Non è che per caso hai un pezzo di formaggio con te?» E Ben Gunn fa una richiesta a Jim, ovvero se può fargli da tramite col capitano e ottenere che una volta trovato il tesoro lui possa avere 1000 sterline d'oro. Jim, quando rivede i suoi, racconta: «Che razza di uomo è questo Ben Gunn?» domandò il dottore. «Is this Ben Gunn a man?» he asked. «Non saprei, signore», dissi. «Non sono sicuro che sia sano di mente. Se c'è solo qualche dubbio in proposito, lo sarà», rispose il dottore. «Non puoi pretendere che un uomo rimasto 3 anni a mangiarsi le unghie su un'isola deserta appaia sano come te o come me, Jim. Non è nella natura umana. Era formaggio quello di cui mi hai detto che aveva una gran voglia?» «Sì, signore, formaggio», risposi. «Beh, Jim», disse, «guarda un po' i vantaggi di essere dei buon gustai. Hai visto la mia tabacchiera, no? Eppure non mi hai mai visto prendere del tabacco. E la ragione è che nella mia tabacchiera tengo un pezzo di parmigiano, un formaggio fatto in Italia, molto nutriente. Tieni, è per Ben Gunn». Well, we shared all by the rule of thumb. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Poi ci sarà l'assalto dei pirati, perché i buoni, diciamo, scendono a terra, si arroccano nel fortino che fu già del pirata Flint, ci sono una serie di scaramucce e Jim ha un'altra delle sue ispirazioni, scappa dal fortino assediato e riesce a impadronirsi della nave, dove ci sono due pirati di guardia che litigano, uno uccide l'altro e lui ucciderà quello che resta, e riesce a nascondere la nave in modo che soltanto un capitano possa portarla poi in mare. Poi corre al fortino per raccontare le sue imprese ai suoi, invece cade in bocca ai pirati, che infrattanto hanno occupato il fortino. Però non lo uccidono perché Silver conta su di lui come ostaggio. Intanto i pirati si ammutinano a Silver e gli danno il bollo nero, ma lui riesce a rovesciare la situazione tirando fuori il suo asso dalla manica, ha la mappa e fa un patto con Jim, che se lo catturano al processo parlerà in suo favore. E i pirati vanno trionfanti a prendere il tesoro nell'isola. E mentre vanno, si sente una voce nella boscaglia che canta. La voce del capitano Flint, la voce dello spettro. The mate was fixed by the bosun's pipe. The bosun brained with a marlin spike. And the cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers ten. And there they lay, all good dead men. Like break of day in a snoozing den. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. 15 men of them stiff and stark. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. 10 of the crew had the murder mark. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. La guardiana del faro. Continuiamo a raccontarvi con Hugo Doyle l'isola del tesoro, e siamo arrivati al punto in cui i pirati, che sono già molto turbati perché hanno trovato uno scheletro messo lì come una bussola per indicare la direzione del tesoro, stanno per arrivare nel luogo indicato dalla mappa. Da quando avevano trovato lo scheletro ed erano entrati in quest'ordine di pensieri, avevano parlato sempre più basso e ormai erano giunti quasi a bisbigliare, sì che il rumore delle loro voci incrinava appena il silenzio del bosco. All'improvviso, dal folto degli alberi davanti a noi, una voce sottile, acuta, tremolante, attaccò l'aria e le parole ben note. 15 men on the dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum. Non ho mai visto qualcuno più mortalmente spaventato di quei pirati. Il colore scomparve da quelle facce. Alcuni balzarono in piedi, altri si strinsero fra loro. Morgan si gettò a terra. E Flint! Andiamo, disse Silver, lottando con le sue labbra cinere per tirar fuori le parole. Così non va. Pronti alla virata? Questa è una ben strana faccenda, e non so di chi sia la voce, ma è di qualcuno che si sta divertendo, qualcuno in carne e ossa, potete giurarlo. E poi c'è qualcosa di peggio. Si sente una voce, ancora più arcana del canto, che grida, che geme, anzi. Darby McGraw! Darby McGraw! Ancora e ancora e ancora, quindi facendosi più acuta e con una bestemmia che tralascio, porta il rum a poppa, Darby! I bucanieri sono terrorizzati, ammutoliti. E allora Silver fa vedere chi è. Compagni, esclamò, sono qui per prendere quel tesoro e non c'è uomo diavolo che me lo impedirà. Non ho mai avuto paura di Flint quando era vivo e per tutti i diavoli lo affronterò da morto. Ci sono 700.000 sterline, a nemmeno un quarto di miglio da qui. Quando mai un gentiluomo di ventura ha dato poppa a così tanti dobloni per un vecchio marinaio ubriaco con la faccia bluastra, eppure morto, sta parlando del defunto Flint. Poi fa una osservazione sottilissima, Silver. Sarebbero scappati via uno dopo l'altro se ne avessero avuto il coraggio, ma la paura li teneva stretti, e stretti anche a John, come se la sua spavalderia potesse aiutarli. Lui, dal canto suo, aveva ormai bellamente sconfitto le proprie debolezze. Spettro? Beh, può darsi, disse, ma c'è una cosa che non mi quadra. C'era un eco. Ora, nessuno ha mai visto uno spettro con un'ombra. E allora cosa c'entra un eco con lui? Vorrei proprio saperlo. Mica è naturale, vi pare? L'idea del denaro, mentre si avvicinavano, spazzò via i precedenti terrori. I loro occhi fiammeggiavano, i loro piedi andavano sempre più veloci e leggeri. La loro anima consisteva interamente in quel tesoro, tutta quella vita di lussi e di piaceri che li aspettava. Silver arrancava sulla sua gruccia grugnendo. Le narici dilatate fremevano, Sicuramente non si dava la pena di nascondere i suoi pensieri, che leggevo come fossero stampati. Nelle immediate vicinanze dell'oro tutto il resto era stato dimenticato. La sua promessa e l'avvertimento del dottore appartenevano ormai al passato e non avevo dubbi sul fatto che sperasse di mettere le mani sul tesoro, trovare l'Ispaniola, salire a bordo, tagliare la gola di ogni onest'uomo sull'isola e prendere il mare, secondo la sua prima intenzione, carico di delitti e di ricchezze. In the immediate nearness of the gold, all else had been forgotten. His promise and the doctor's warning were both things of the past, and I could not doubt that he hoped to seize upon the treasure, find and board the Hispaniola under cover of night, cut every honest throat about that island, and sail away as he had at first intended, laden with crimes and riches. E i pirati, accecati da questa magnifica visione dell'oro, dimenticano gli spettri, dimenticano tutto, finalmente arrivano nel luogo designato dalla mappa e lì, signori, leggetevelo o rinfrescatelo, perché sicuramente dei ragazzi lo avrete letto. Se siete ragazzi avete una bella occasione per questa iniziazione. Non vi diciamo tutto di come finisce, però una cosa ve lo devo dire: ci sarà la vittoria schiacciante dei buoni, che torneranno in patria col tesoro, con Silver prigioniero da consegnare alla giustizia e con Ben Gunn che è stato l'eroe, diciamo, di tutta questa avventura. E poi si fermeranno in un golfo caraibico, i buoni scendono a terra, quando rientrano Silver è evaso, è sparito nella notte su una barchetta e si è portato anche un pezzetto del tesoro. Perché si salva? Perché Stevenson non ce la fa a perderlo e a mandarlo a processo e a farlo impiccare. E forse, chissà, per rivederlo in un altro libro che non scrisse mai, ma Silver si salva con sollievo di tutti. Anche noi segretamente avevamo stretto un patto scellerato con lui. E Ben Gunn avrà, come aveva chiesto nell'isola, secondo i patti, le sue 1000 sterline. Povero Ben! Ma che fregatura! Che fregatura che questi ricchi gli danno! Ma gli spetterebbe una buona fetta del tesoro. Senza di lui mai sarebbero riusciti a trovarlo, mai ce l'avrebbero fatta. E con questa ingiustizia chiude il libro. Però sapere che Long John Silver è salvo e potrà ancora fare tutto il male che vorrà ci consola. The bar silver and the arms still lie, for all that I know, where Flint buried them, and certainly they shall lie there for me. Oxen and wain ropes would not bring me back again to that accursed island, and the worst dreams that ever I have are when I hear the surf booming about its coasts, or start upright in bed, with the sharp voice of Captain Flint still ringing in my ears. Pieces of eight! Pieces of eight! Come nel racconto di Michele Mari, il patrimonio del popolo tedesco sui fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, che raccolgono attraverso le favole appunto il patrimonio del folklore del popolo tedesco, e poi si scopre che in verità non sono loro che scrivono. Hanno un fratello prigioniero, pallidissimo, malato, esangue, che loro sfruttano, tengono sequestrato e lo fanno scrivere al loro posto. E anche lo sgridano, e poi quando loro se ne vanno imponendo un lavoro più serrato, lui scende nei sotterranei, è incatenato. C'è un altro fratello, un mostro, e lui gli dice, ed è lui il vero autore, affabula mostro. Quando ho saputo che Michele Mari aveva chiesto assistenza a Hugo Doyle e a suo padre Thomas, perché di madrelingua inglese, allora mi è venuto in mente che loro fossero un po' i Grimm di Mari. Posso dire da parte mia, quando appunto abbiamo parlato con Michele, io e lui, di questa idea, io ero solo contento di poterlo assistere a livello tecnico-linguistico, però gli ho detto fammi a mia volta fare una verifica e voglio io l'assistenza di mio padre, quindi è stato un processo retromarcia. Quindi sei andato nella caverna a prendere l'altro dono. Poi non so con chi abbia parlato lui. Cioè con chi abbia parlato tuo padre, chi altro tenga prigioniero in qualche casa. Ad ogni modo, quello che è meraviglioso in questa traduzione è proprio che nulla ostacola questa andatura fiabesca. Sembra veramente di stare nel mare. Ho trovato ovviamente molto interessante questa idea di assisterlo sul fronte prettamente linguistico nella traduzione. Ho anche esplicitato il fatto che ovviamente in nessun modo entravo nella resa linguistica italiana, ma le eventuali piccole ambiguità che ci potevano essere nella comprensione del testo inglese, perché è un testo del XIX secolo, è un testo dove i marinai, i pirati parlano in maniera gergale, molto sgrammaticata, e l'inglese si presta molto a essere sgrammaticato, molto di più dell'italiano. Infatti alcuni passaggi sono veramente sgrammaticati, ma questa era ovviamente la volontà di Stevenson. Un certo modo di parlare inglese scassato ci stava molto bene nel testo originale, renderlo in italiano è stato un po' più difficile. Rivedevo quanto Michele Mari aveva tradotto, e quei pochissimi passaggi dove magari non mi sembrava che il testo fluisse come Stevenson voleva, glieli segnalavo. Quando invece non riuscivo proprio a uscirne, scrivevo a margine ask B, chiedi a B, B essendo babbo, il mio babbo, e quindi tornavo al mio fratello Grimm e chiedevo a lui. E questo gioco a triangolo, le soluzioni ce le siamo rimbalzate un po' noi tre e le abbiamo fatte emergere assieme, speriamo. Capitaneria di Porto. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è anche in libreria, con le lettere e i racconti sull'amore letti da Barbara Alberti a Radio 24. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.